America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, vi ho raccontato ieri di questo piano in divenire un nuovo veicolo che dovrebbe consentire di recuperare liquidità a sufficienza per poter rassicurare i mercati. Ebbene, la notizia si è diffusa poi questa mattina, anche altri giornali hanno ripreso questa ipotesi. Il punto di partenza era sempre Washington, il corridoio del Fondo Monetario Internazionale, nel quale i ministri parlavano, cercavano dei compromessi, cercavano delle vie d'uscita. Ebbene, questo messaggio in arrivo da Washington ha avuto un impatto sulle borse. Le borse infatti hanno chiuso al rialzo. Beh, qualcuno mi ha scritto, mi ha detto, ma qui è sempre volatilità, un giorno sale, un giorno scende questa borsa. Ebbene, il messaggio direi oggi è leggermente diverso, perché dietro questa reazione di un nervosismo evidente degli operatori e del mercato, questa volta c'è qualche cosa di concreto, c'è un progetto, c'è un piano. Vi riassumo brevemente le grandi linee di questo piano. Esiste il Fondo European Financial Stability Facility, EFSF, e all'interno di questo fondo si ritagliano circa 200-235 miliardi di euro, vengono dati in dotazione di capitale a un nuovo veicolo. Questo nuovo veicolo viene gestito dalla Banca Europea per gli investimenti, che fa una raccolta sul mercato facendo leva su questo capitale da 1 a 10. Dunque si può arrivare fino a 2.000 miliardi. Diciamo che si fa una leva di 8, perché forse 10 è troppo forte, fra i 1.600, 1.700 e i 2.000 miliardi a seconda della dotazione di capitale. Ecco, a questo punto i sottoscrittori, molti saranno banche stesse, potranno usare la carta BEI per andare dalla Banca Centrale Europea e ottenere, dando come garanzia questi strumenti, della liquidità nuova. Ci sono state dichiarazioni su queste indiscrezioni, nessuna conferma ufficiale, ma per esempio il ministro per le finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto che non se ne parla di aumentare il fondo FSF, però si potrebbero immaginare, ha detto, delle soluzioni creative per poterlo rendere più efficiente. Quindi indirettamente conferma l'ipotesi di un veicolo esterno senza bisogno di dover impegnare i governi con un nuovo aumento di capitale diretto. Ci sarà forse un passaggio tecnico, ma a quel punto il veicolo sarà indipendente, dunque non dovrà più rispondere ad ogni passo all'approvazione dei singoli governi nazionali. Quindi in generale i conti sembrano tornare, ma con me forse uno dei più grandi esperti di queste vicende, Carlo Bastasin, nostro editorialista, è stato corrispondente da Francoforte, lavora adesso con la Brookings Institution, sta per pubblicare un libro proprio sull'euro e sugli equilibri europei. Carlo, buongiorno. Mario, buongiorno a te. Permettimi intanto di farti complimenti per la notizia che hai pubblicato. È uno dei rari casi in cui non è solo la dimensione della novità, ma anche il segno in cui porta che fanno rallegrare. Carlo, ti ringrazio. Noi in realtà ci consultiamo ogni tanto, ci sentiamo, come è giusto che sia. E dunque, Carlo, vorrei sentire da te qual è la tua reazione davanti a questa ipotesi. Secondo te, intanto, i mercati stanno reagendo per volatilità o perché magari c'è davvero qualche cosa di più concreto in cui sperano? Diciamo che la reazione stessa è una novità, e cioè fa capire che se si riesce a disegnare una soluzione, una via d'uscita a questa crisi, i mercati sono pronti a seguire l'indirizzo politico verso una soluzione positiva. Secondo te questo percorso, questo tracciato è credibile, è un percorso credibile o alla fine non fa altro che appesantire l'Europa di ulteriore debito? Tecnicamente è una possibilità fattibile, diciamo che non c'è molta offerta di titoli a AAA che potrebbero competere con una nuova offerta da parte, BEI, e quindi questo tipo di titoli potrebbe essere ben accolto tecnicamente. Dal punto di vista della natura dell'intervento rivolto alle banche, per me è un po' una sorpresa la sensibilità nei confronti dell'instabilità del sistema bancario europeo. È più forte in America di quanto non sia in Europa, dove invece si pensa che i rischi nascosti nei portafogli delle banche siano essenzialmente i rischi legati al cosiddetto rischio sovrano, cioè a quello dei paesi sotto stress, paesi troppo indebitati, che quindi vadano risolti i problemi dei paesi indebitati e non quelli delle banche. Ma bisogna fare qualche cosa. Qui in America ho parlato con un importante investitore che è preoccupatissimo, e questo tra l'altro contrasta con le tesi spesso diffuse in Europa secondo cui gli americani stanno lavorando per vedere l'euro crollato perché non lo sopportano, perché non possono immaginare che ci sia un sistema valutario autonomo. Dunque questo signore, che ha delle ingentissime quantità in gestione ed è molto influente, ha detto: guai se c'è un problema sull'euro, perché altrimenti crolliamo tutti. Quindi l'interesse americano è che a questo problema si superi, però c'è molta paura. Si supererà? La reazione dei mercati così positiva a un'ipotesi di soluzione affacciata appunto prima da 24 ore e poi dal Sunday Times fa capire che una volta risolti, pesa la decisione politica sulla natura della soluzione, automaticamente i mercati si allineano alla possibilità di raddrizzare le sorti dell'euroarea. E questo anche indipendentemente da alcune incognite che possono restare aperte, come il destino preciso del debito greco. Ecco, secondo te il debito greco come andrà a finire? Ci sarà questo haircut del 21% come concordato in luglio, oppure si andrà al di sopra? Credo che la decisione sul debito greco dipenderà da quanto risolviamo i problemi di liquidità in Italia e Spagna. Una volta messi al sicuro, fatto diciamo l'anello di protezione attorno alla Grecia, tutto sarebbe più facile, compreso appunto fare il haircut, come dicevi, sul debito greco. Un'ultima domanda, Carlo. Ci siamo accorti che una gran parte dei nostri problemi derivano dalla mancanza di una flessibile autorità centrale in grado di decidere rapidamente, come fa il Tesoro americano, come fanno diciamo i paesi, anche i singoli paesi, da un punto di vista autonomo. Ecco, l'Europa è più imbrigliata. Secondo te, da questa crisi è possibile che ci sia un'accelerazione, o addirittura è auspicabile? Io personalmente la auspico, ma è auspicabile secondo te un'accelerazione del processo di unificazione attraverso un rafforzamento delle istituzioni fiscali europee? Una quantità di tabù è stata già infranta, pensiamo al ruolo della BCE. Io credo che con l'andare avanti della crisi si arriverà anche a formalizzare istituzionalmente questa forte interdipendenza, sia economica, sia fiscale, sia politica. Per farlo è necessario ridurre un po' quello che si dice il costo politico per chi governa, in particolare in Germania, nel far accettare alla propria opinione pubblica una così stretta interdipendenza politica. Questo sarà possibile il giorno in cui, come è nei programmi, tutti i nostri paesi avranno bilanci in pareggio. A quel punto sarà facile dire: mettiamoli assieme questi bilanci. Nessuno dovrà trasferire grandi risorse da un paese all'altro, perché saremo tutti o in bilancio o in surplus. E quindi a quel punto sì, la crisi che a noi appare così tragica adesso potrebbe essere stata, come si dice, una buona crisi, l'opportunità davvero presa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Inizia oggi il tour autunnale dei The Wood Brothers. I due fratelli del Colorado hanno un programma fittissimo, andranno in concerto fino a dicembre. Dunque, dei Wood Brothers, Shuffley Pie. I'm gonna give you the wheel, I'm gonna let you drive, but you gotta make me a shuffley pie. You gotta make me a shuffley pie. Well, don't forget the sweet molasses, I won't leave a crumb. Don't you just sit there laughing. You know how bad I need some. You know how bad I need some of that shoe fly pie. Shoe fly pie. like it if it's hot or cold. Make it for me in the evening, baby, when the sun is gone. You can make it in the evening when the sun is gone. You can make it if the house goes late, and you give it to me right on time. Well, I like it in the kitchen and the living room driveway. I don't mind if the house on fire. I don't care if the house on fire. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.